Lupo Nair, Summer Spurgo. Bentrovati a questa nuova puntata, la quinta puntata della seconda stagione di Lupo Nair Summer Spurgo, con la voce di Vanni che è qui in questo momento e quella di Flamini che avete ascoltato solo all'inizio, che vi ha detto ciao. Ora abbiamo iniziato con l'ascolto di Marais, che come capite dal nome viene da Los Angeles, California. Ha da pochissimo pubblicato un album nuovo intitolato Non Stop Romance ed è questa roba qui, è un po' dark wave, un po'... Che roba è, italo disco. Comunque è uscito per la Revolution Records, il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Wild at Heart. Ora passiamo al metallo pesante, ma per scherzo. Sono i Basel Vat, che arrivano anche loro dagli Stati Uniti, da Flint, Michigan. Mescolano black metal, folk metal, hard rock, musica sperimentale, si occupano di fantasy, magia, forze spirituali, eccetera eccetera. Fanno un po' come cazzo gli pare, insomma. Hanno pubblicato il sesto album in 5 anni. L'album si intitola Ridiculed by the Common Soldiery e il brano che ascoltiamo è The Dark Matter Stargate, Basel Vat. We'll be right back. Lupo on Air Summer Spurgo. Questo è il titolo del brano dei Selenia che abbiamo ascoltato adesso dal loro EP Luna Nova. Loro sono un duo di dark folk dalla Campania, Italia, quindi Atena Fedeli alla voce, Benedetto Salamone alla chitarra e Ubaldo Tartaglione all'altra chitarra. Perché l'ho detto? Non lo so. Comunque è stato piacevole, insomma, una piacevole scoperta questo dark folk così. Passiamo ad altro, ad altre voci femminili, cioè, o meglio, entità femminili che sono alle spalle di questo progetto. Questo brano che andiamo ad ascoltare è strumentale, tuttavia c'è una donna ai comandi del progetto Spectra Negra, Veronica Motta, che il nome chiaramente tradisce la sua origine, è di Berlino, Germania, attiva da diversi anni nella scena industrial tedesca, ma solo ora arriva all'album completo uscito per la Ends Productions. L'album si chiama Empire e il brano che ascoltiamo è Rose of Jericho e Spectra Negra. Luponer, Summerspurgo. We'll be right back. Zanias la conosciamo da un po' per le sue esperienze con Linea Spera, con Keluar insieme a Sid dei Schwefelgelb, ce la farò, più una serie di uscite di cui abbiamo perso il conto dell'ultimo periodo a nome Zanias. Si è parlato di lei ultimamente perché ha deciso di ritirarsi all'Anfi Festival, uno dei più grossi festival per la scena goth industrial della Germania, per quanto l'avrebbero impedita di esporre la bandiera palestinese. Mi chiedo per quale motivo. Abbiamo ascoltato dall'album Act This Is il brano Dune Skipper, ma oltre quest'album ha pubblicato una marea di singoli decisamente diversi. Ma noi invece, passiamo alle Marche, alla musica tradizionale demarchigiana, ossia l'hardcore de Sant'Elpidio a Mare, quello propostoci dai Respect for Zero, una band che era attiva da parecchi anni, ma da parecchio non si faceva sentire più con delle novità. E quindi abbiamo una cassetta, un EP in cassetta uscito adesso, fresco, si intitola Overtime, e il brano che ascoltiamo è Mirrors, Respect for Zero. Summerspurgo. I can make your girl stop what she's doing and turn around and watch me do my little dance. I can drink about 15 beers and maybe 25, it depends on the kind. Japanese soldiers surrendered in 1998. And they were actually, it was commonplace to use bears in the Polish army. And another interesting fact is that most deaths happened in pilot school, I believe. I can make a girl stop what she's doing and turn around and watch me do my little dance. I can drink about 15 beers or 25, it depends on the can. I can drop some historical facts about wars in Europe that you know nothing about. But it doesn't mean anything if you ain't here with me, 'cause I need you and you need me. Estate è se non ascoltiamo i Viagra Boys? Cosa ci tira su se non i Viagra Boys? I Viagra Boys sono arrivati al traguardo del ennesimo album che si intitola Viagra Boys. È uscito ad aprile di questo anno e abbiamo ascoltato il brano You Need Me. Sì, perché due simboletti, vabbè, due tre al posto delle, okay. Viagra Boys. Passiamo ad altro, con i altri numeretti, non 33 del Need Me che stava lì nel titolo dei Viagra Boys, ma nel nome della band. Sono i 66 CL da Rovereto, che hanno da poco pubblicato un album intitolato Ghigliottina, uscito adesso, proprio c'è qualche giorno, Ghigliottina dei 66 CL. Ascoltiamo un brano che pure c'è una sigla strana, aspetta, D-I-G-O-S-B-O-I-A-A-A-A, 66 CL da Rovereto. Insultare nessun cane. Lupo Nair, Summersburg. Big Sun sono un gruppo danese che fa come cazzo gli pare. Questo è il loro album di debutto, Rite de Passage. Metal Archives li ignora, anche se in fondo fanno hard rock e heavy metal. Abbiamo ascoltato il brano Ra Oractus. Ora che ascoltiamo? Un po' di IBM tradizionale cattivissima. Dal Regno Unito arrivano i Ghosts for Comfort, che hanno pubblicato un EP intitolato Serpent. Da questo EP ascoltiamo il brano The Seed, Ghosts for Comfort. Thank you. Un po' di black metal ignorantissimo, sempre anche loro dal Regno Unito, dal Galles, dal Land of Black Covenant, l'etichetta che ha prodotto questi Rack, dal loro album di debutto Che Infravolo Videre abbiamo ascoltato il brano A Woeful Descent Telos, Yuvrak, e questa è la conclusione di questa ennesima quinta puntata di Luponair Summer Spurgo. Ci sentiamo a giovedì prossimo, vi lasciamo con la techno scozzese propostaci dagli Slam, dal loro ultimo album Dark Channel. Ascoltiamo Beat on the Drum e a giovedì prossimo con Luponair Summer Spurgo. Lupo Nair Summersburgo.